Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Sì, è vero, siamo tornati pronti per dare il via alla nuova stagione del Soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e buonasera anche a un freschissimo Francesco Tromba, reduce da una bella vacanza. Beato te. Eh sì, diciamo un mese fra Calabria e Sicilia, mare, isole eolie, fa sempre bene, ti ricarica a pieno. Anch'io ho girato tantissimo, non per fare vacanza, ma per fare tantissimi concerti. Sono stato anche in Calabria, in Sicilia, e mi sono portato a casa naturalmente dell'ottimo peperoncino calabrese. Anch'io ti ho portato qualcosa al peperoncino. Ah, nella busta c'è? Sì, ho portato dell'olio e della marmellata che ho fatto io personalmente. Marmellata di peperoncino, poi mi dirai come si fa la marmellata di peperoncino. Ma andiamo avanti con la musica, perché intanto sono andate in onda delle repliche bellissime. Io ho ascoltato anche qualcosa viaggiando per il nostro paese e mi sono piaciute abbastanza, anche se sono abbastanza sempre molto critico con me stesso. Sì, e ci hanno anche scritto in molti sui social network per chiedere ulteriori informazioni in merito alle repliche, perché magari qualcuno si era perso qualche puntata e riascoltandola è venuta la curiosità di sapere qualcosa in più sugli artisti in Airplay. Bene, ricordiamo allora anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare i vostri quesiti e per sapere tutte le informazioni riguardo ai nostri brani in Airplay, ovvero soundcheck@radio24.it. Nelle pagine del sito groovemasteredition.it troverete invece la scaletta di oggi. Poi noi torneremo anche domani per la puntata di domenica, divisa come sempre in due parti, la prima che inizia alle 15.30 e poi la seconda parte, quella più jazz, dalle 19.15 in poi. Allora, diamo il via alla puntata di oggi con una novità, sì, perché questo album sta per essere pubblicato con una stranissima coppia come protagonista. Stranissima perché vedere insieme un veterano del jazz come Tony Bennett e una star della nuova generazione del pop internazionale come Lady Gaga mi fa un po' impressione. Devo dire che anch'io all'inizio ero abbastanza scettico, però poi ascoltando qualcosa ho cambiato idea quasi subito. Ecco, la strana coppia si era già riunita per realizzare una versione di Ladies and Tramp per un album di Tony Bennett con tutti i duetti favolosi, ma evidentemente la cosa non è dispiaciuta a Lady Gaga, che probabilmente ha corto di idee e quindi prima di pubblicare un nuovo album assolutamente pop dance ha pensato bene di tirare fuori tutta la sua passione per il jazz, coinvolgendo nuovamente il grande Tony Bennett, e quindi hanno sfornato, stanno per sfornare, perché sta per essere distribuito in tutto il mondo, questo album già primo in classifica nelle classifiche del jazz. Lo ripeto, mi fa impressione vedere Lady Gaga nei primi posti delle classifiche discografiche del jazz, album intitolato Cheek to Cheek, come il classico di Irving Berlin, un album di standard realizzato in un ottimo studio di registrazione con alcuni dei migliori musicisti jazz della nuova generazione. Vari organici sono stati coinvolti. Sì, circa 4 band diverse, perché comunque sia Lady Gaga che Tony Bennett magari hanno i loro uomini di fiducia, donne di fiducia, quindi. Certamente, ma poi senz'altro non mancano i soldini per realizzare una produzione così importante, e infatti i soldini stanno arrivando, lo diciamo, l'album in prevendita è già primo in classifica, si intitola Cheek to Cheek, la strana coppia Tony Bennett Lady Gaga apre questa nuova edizione del Soundcheck con un classico intitolato I Can Give You Anything But Love. Questo è il Soundcheck, questo è Radio 24. Always pining for how you'd like to see me looking swell, lady. Diamond bracelets won't work, doesn't sell. Gaga, till that lucky day. Lo Lo ripetiamo, I Can Give You Anything But Love, brano che troverete nella nuova imminente pubblicazione intitolata Cheek to Cheek, con protagonisti il veterano del jazz Tony Bennett e la superstar Lady Gaga, che ha cambiato look anche in questa occasione. E tra l'altro, per realizzare un po' di marketing e fare un po' di rumore, i due pare abbiano chiuso anche un bel contratto con una casa di moda per ragazzi. Sì, è Tony Bennett, ottantenne, di ottantenne, è diventato testimonial di un marchio per giovani. Comunque. Però lui è sempre elegantissimo, col vestito gessato, in giacca e cravatta, elegantissimo. E Lady Gaga come affiancherà, per quanto riguarda il look, Tony Bennett sui palcoscenici in tutto il mondo, anche se si sono già esibiti, mi pare, al Festival di Montreal? Sì, si sono esibiti già un paio di volte, anche diciamo in contesti un po' più ristretti, non troppo privati, famose convention le chiamiamo qui in Italia, quindi tanti soldi arrivano. Diciamo che lei è ogni volta diversa, cioè sembra una persona diversa ogni volta che si esibisce o che fa un nuovo video. È tipico di certe donne, no? Eh sì, lei è proprio trasformista al massimo. Allora, questa Zelig del pop internazionale con Tony Bennett, questo è il soundcheck di Radio 24, siamo tornati, nuova stagione, e ho notato che c'è un ritorno ancora una volta allo swing, e alcuni artisti, soprattutto alcuni DJ, si stanno divertendo a riproporre anche brani che vengono dal contemporary R&B e nel caso specifico dal new soul in una chiave swing contemporary, ma anche un po' retro. Eh sì, fa di nuovo di moda, diciamo, l'età del jazz americano, dei primi anni 30 magari. È vero, l'era del jazz, l'era dello swing sta tornando anche per i disc jockey giovanissimi, e un esempio ce lo dà un signore francese. Eh sì, perché in Francia sono anche molto attenti, ci sono dei DJ molto preparati. Questo signore si chiama Minimatic. Che cosa ha fatto Minimatic? Ha recuperato una traccia a cappella del famoso brano Brown Sugar, portato al successo da D'Angelo, anzi è stato proprio con questo brano che D'Angelo è diventato un protagonista della scena New Soul ormai una quindicina di anni fa, e ha elaborato il tutto in una chiave swing hip hop ma abbastanza retro, e quindi ascoltiamo Minimatic e D'Angelo in Brown Sugar qui al soundcheck di Radio 24. Let me tell you about this girl. Maybe I shouldn't. I met her in Philly and her name was Brown Sugar. That'll be how the story goes. Brown sugar got me open, now I want some more. Always down for menage a trois, but I think I'ma hit it solo. Hope my niggas don't mind. Il DJ francese Minimatic utilizza la voce di D'Angelo per creare la sua versione swing retro di Brown Sugar. E sì, lo swing sta tornando alla grande. E quali sono gli ingredienti di Minimatic per realizzare i suoi remix? Andando sul suo sito vediamo che la sua ricetta è un tocco di swing, una fetta di funk, tante pause e beats. E in più un sacco di suoni pop idioti tutto intorno. Questo lo dice Minimatic, ma la passione per lo swing coinvolge anche un'altra giovane artista. Beh, giovane non tanto, ma una bellissima ragazza. Io ho visto anche delle fotografie di questa signorina chiamata Dessie Di Lauro, che ha un fisicone, e d'altra parte non poteva non avere un fisicone perché per un bel periodo ha lavorato nel Cirque du Soleil. Sì, tra l'altro lei ha anche origini cubane, brasiliane, italiane, quindi c'è un bel mix anche in quanto per quello che riguarda sia dal punto di vista fisico che anche passionale. È un bel mix di sonorità, lo hanno combinato i producer di Dessi e Di Lauro, mettendo insieme elementi di jive, di swing, con sonorità pop e qualche riff retro, per realizzare proprio questo singolo per Dessi e Di Lauro intitolato Jump and Jiving, qui al Soundcheck su Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di nuovo in contatto con il Soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Oggi presentiamo moltissime novità. Abbiamo già parlato di Lady Gaga e Tony Bennett, ma c'è una star del pop internazionale, ma pop è poco, no? Per definire il sound legato alla figura di questo strepitoso artista, musicista, compositore, producer discografico, cinematografico e via dicendo, il signor Prince da Minneapolis torna con un album che si intitola Art Official Age, anticipato ormai alcuni mesi fa dalla pubblicazione di Breakfast Can Wait. Noi abbiamo però il singolo, tanto per farvi pregustare le nuove sonorità che Prince sfornerà con questa pubblicazione, che sarà in distribuzione ufficialmente in tutto il mondo a partire dal 30 di settembre. Ma anche questo album è primo già in prevendita nella classifica, per esempio, che riguarda iTunes. Eh sì, diciamo che Prince è una garanzia, e anche lui è un bell'istrione, molto più di Lady Gaga, ha fatto di tutto, l'attore, il musicista. Beh, secondo me non sono neanche paragonabili, proprio musicalmente. Io l'ho visto diverse volte dal vivo e ho avuto anche la fortuna di frequentare per un paio di mesi il Paisley Park, ma ti sto parlando del periodo funk, quello della metà degli anni 90. Ho avuto anche l'onore di stringergli la mano, di conoscerlo e di essere invitato a una serata in quella bellissima discoteca che non so, non credo sia ancora di proprietà di Prince, non so ancora se esiste, ma si chiamava Glam Slam, un posto favoloso dove ho visto le più belle ragazze del mondo, posso utilizzare un termine tecnico? Sì. Sculettare sul downbeat come poche volte ho visto nella mia vita. Ma lui faceva anche il DJ? No, assolutamente, lui neanche lo frequentava il locale. Pensa, per entrare nel locale c'era anche il metal detector, siamo passati sotto al metal detector io e il mio producer Ben Sidran, ma ti sto parlando della metà degli anni 90. Ma veniamo a Prince, nuova pubblicazione per lui, lo dicevamo, Art Official Age, questo è il nuovo singolo che si intitola You Know. Questo è il Soundcheck di Radio 24, tante novità oggi. Il sound tipico ma rinnovato di Prince, ha suonato tutto lui in studio di registrazione lì al Paisley Park a Chanhassen, Minneapolis, per questo album intitolato Art Official Age, come sempre contornato, circondato da bellissime donne. Musicista meraviglioso, suona praticamente tutto, batteria, basso, tastiere, se la canta e se la suona e se la produce anche. Infatti, diciamo, se dovessi rinascere un musicista, sceglierei di essere Prince, perché sa suonare qualsiasi strumento. Beh, anche Stevie Wonder, però. Sì, vabbè, però... Ce ne sono diversi. Domani ti farò ascoltare un ragazzo, proprio in apertura, che ha 19 anni, inglese, suona di tutto. Si chiama Jacob Collier. Lo conosci, inglese? Ho visto forse qualcosa su YouTube. Su YouTube, adesso fra un po' uscirà il disco, noi abbiamo il singolo ma lo sentiremo domani. Allora torniamo a Prince, anzi da Prince che abbiamo ascoltato con You Know, restiamo un po' su questo tipo di suono pop, soul, R&B per presentarvi una bravissima cantante non molto conosciuta da noi, nata ad Atlanta in Georgia nel 1976, ma con collaborazioni importanti, per esempio una delle protagoniste come vocalist dell'ultima fatica discografica di grande successo realizzata da Esperanza Spalding, che l'ha voluta con sé insieme a Lala Hathaway e altri meravigliosi musicisti per Black Radio Society. E noi oggi vi presentiamo il talento di questa donna che ha un nome enigmatico o matematico, ovvero Algebra Blessed. Che cosa sai di Algebra Blessed? Intanto devo dire che la matematica non è proprio la mia passione, però diciamo lei mi piace molto. Quindi potrebbe essere Algebra Blessed una delle tue passioni, perché come cantante è strepitosa. Eh sì, anche lei viene dal gospel come molti altri suoi colleghi che si sono poi dati al soul. Ha iniziato a fare i cori con Bilal, poi ha iniziato a fare un tour insieme ad Anthony Hamilton e sì, successivamente ha imparato a suonare la chitarra e si è messa in proprio, diciamo. E insomma c'è una bella produzione per Algebra Blessed che noi vi presentiamo qui al Soundcheck con un singolo, come potrei definirlo, pop, soul, R&B, anche un po' retro, e lo si nota da questo andazzo di pianoforte che introduce proprio la melodia proposta da Algebra Blessed, intitolata Nobody But You, qui al Soundcheck. You were in my dream. How it seems you're my everything. La voce, il talento che arriva dal gospel della giovane Algebra Blessed, musicista di riferimento per il contemporary R&B oggi negli Stati Uniti, ne parlavamo, l'abbiamo ascoltata, l'abbiamo apprezzata anche in questo bellissimo lavoro realizzato da Esperanza Spalding ormai un paio di anni fa, Radio Music Society, album con il quale Esperanza Spalding ha ottenuto grandi consensi avendo anche già vinto un bellissimo Grammy Award. Direi di ascoltare allora questa versione di Black Gold di Esperanza Spalding con la partecipazione di Algebra Blessed qui al Soundcheck di Radio 24. Hold your head as high as you can, high enough to see who you are, little man. Life sometimes is cold and cruel, maybe no one else will tell you, so remember that you are black gold, black gold. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. È un nuovo album molto ben realizzato, perché sono stati utilizzati degli studi di registrazione meravigliosi lì a Los Angeles. Un altro album lo ha prodotto il signor Algebra, che ha iniziato la sua carriera quanti anni fa? 50 anni fa, perché a 74 anni, a 20 anni già calcava i palcoscenici insieme al suo grandissimo amico George Duke, che infatti con questo album Algebra celebra la sua amicizia, tributo al grande maestro George Duke, comparso più o meno un anno fa, album intitolato infatti My Old Friend, il mio vecchio amico, Celebrating George Duke, che quindi sono stati riarrangiati e rivisitati tutti i brani, molti brani tratti dal repertorio di George Duke, utilizzando studi bellissimi e anche una serie di musicisti, sidemen di importanza internazionale come Gerald Albright, la bravissima Lala Hathaway, Jeffrey Osborne, Diane Reeves, il tastierista John Beasley e anche la bravissima Patrice Rushen, c'è il chitarrista Paul Jackson, c'è Stanley Clark naturalmente, tutti per ricordare George Duke, bravissimo musicista, ma anche pare una persona molto amata dagli amici. Sì, tra l'altro il suo impegno nel sociale, cioè lui lavorava nel sociale prima di diventare il cantante, il musicista che poi è diventato. Questo chi? Al Jarreau o George Duke? Al Jarreau. Al Jarreau, e quindi Al Jarreau che ha quanti anni? 74? Sì, 74. 74, non ci posso credere, io ho molti album di Al Jarreau. Beh, naturalmente quando senti i dischi poi gli artisti non invecchiano mai, e soprattutto un artista come Al Jarreau che ha ancora tantissima energia, e qui nella copertina appare in ottime condizioni, a parte il viso, forse si è fatto anche lui qualche plastichina come George Benson? Eh sì, sembra di sì dalla foto. Pare di sì, è un po' tirato, soprattutto sugli occhi. Bene, comunque ascoltiamo Al Jarreau da My Old Friend per George Duke, il brano, una composizione di George Duke, naturalmente intitolata You Touch My Brain, e per realizzare questo brano chi ha chiamato? Dr. John, al quale ha pagato senz'altro un biglietto di prima classe da New Orleans. Dr. John è arrivato con il suo bastone magico perché è appassionato di esoterismo, e quindi in studio realizzano You Touch My Brain, Al Jarreau e Dr. John per George Duke qui al soundcheck di Radio 24. Intitola My Old Friend, il nuovo album di Al Jarreau che celebra la sua amicizia con George Duke, e in questo brano intitolato You Touch My Brain con la partecipazione del bravissimo Dr. John direttamente da New Orleans. Sì, George Duke è stato un musicista molto amato non solo dagli appassionati di funk, musicista che ha suonato di tutto, anche qualcosa di rock spinto e tecnicamente difficile, come le peripezie musicali di Frank Zappa, con il quale ha militato George Duke, poi ha suonato con Conobal Adderley Quintet, insomma un musicista che prima di intraprendere la sua carriera da solista ne ha fatte di cotte e di crude, eccellente tastierista ma anche un bravissimo vocalist, musicista molto amato e anche una persona molto godibile nella vita, pare dotato di un senso dell'umorismo eccellente, senso dell'umorismo che però non l'ha aiutato più di tanto, perché pensate un po' che storia, durante la realizzazione dell'ultimo album, tra l'altro un album dedicato alla moglie che era scomparsa un anno prima, George Duke riesce a finire le registrazioni e proprio nel giorno della pubblicazione muore anche lui a causa di una leucemia. Che storia, eh? Sì, meno male diciamo da un certo punto di vista, perché magari così non senti le critiche, sei comunque, hai finito il tuo lavoro, il suo obiettivo era riuscire a finire l'album. Naturalmente se nel giorno della pubblicazione di un disco l'artista muore, il disco va subito prima in classifica. Sì, però non c'è più lui che può... Non c'è più lui, ma resta la sua musica, lui continua a essere ricordato da tutti i musicisti che hanno collaborato con lui, e allora noi vogliamo invece ricordare George Duke proprio con una sua impresa 2005, il brano, una super jam, il brano si intitola T-Jam con la partecipazione di due eccellenti musicisti come il flautista Hubert Laws e il contrabbassista Christian McBride, che in questa occasione suona il basso elettrico, e sentirete che assolo fa Christian McBride per George Duke, che con questo brano vinse il Grammy Award nel 2005 come migliore performance strumentale. Soundcheck. Il suono della musica. Seconda parte del soundcheck prova del suono di Radio 24 e durante l'informazione di Radio 24 mi stavo intrattenendo con il nostro Francesco Tromba parlando di viaggi, sì, perché fra i vari paesi visitati ce n'è uno che invece non ho ancora visto e ci vorrei andare anche per motivi musicali, un paese molto bello, molto interessante che è l'Australia. Allora vi starete chiedendo, ma che c'entra la musica con l'Australia? E te invece lo sai, mio caro Francesco, che in questo momento in Australia stanno spingendo l'acceleratore su vari versi. Intanto ci sono degli ottimi musicisti di jazz e intanto nei conservatori australiani ci sono anche dei bravi musicisti italiani che si sono trasferiti e che insegnano, come alcuni collaboratori per esempio del mio amico Stefano Bollani, che hanno scelto l'Australia come paese dove vivere e forse hanno avuto una bellissima idea. Sì, diciamo che ci sono tantissimi italiani che stanno andando in Australia anche con il programma Work Holidays. Molti ragazzi della mia età, molti ragazzi che conosco sono stati in Australia, diciamo, poi magari non ci rimangono perché comunque l'Italia è sempre l'Italia. L'Italia è sempre l'Italia, ma quanto tempo fa potevamo dire questa cosa? Possiamo ancora dirla. Possiamo ancora dirla, secondo te? Ma non lo so. Comunque in Australia un viaggetto me lo farei anche per motivi musicali, perché per esempio dall'Australia ultimamente è venuta fuori una band che sta spopolando in giro per il mondo, come quella diretta dalla brava vocalist, compositrice, arrangiatrice, musicista con un look bizzarro come quello di Ney Palm e i suoi Hiatus Keyote. Ottima band, ti piacciono? Sì, tantissimo. Da quando li ho scoperti li ascolto molto spesso. E non puoi fare a meno di Hiatus Keyote, che sono stati in Italia alcuni mesi fa per una data unica, speriamo di rivederli. Adesso invece stanno spopolando in giro per il mondo anche negli Stati Uniti, ma c'è un altro ragazzo appena ventenne che si sta facendo notare nell'ambiente del contemporary R&B americano, avendo tra l'altro proprio quest'anno collaborato con alcune star del genere come il pianista Robert Glasper, uno dei nostri preferiti, ma anche con un veterano come il vibrafonista Roy Ayers, che è stato uno degli artefici, ma già negli anni 60, di quello che oggi è chiamato New Soul. E vi stiamo parlando di questo ragazzo, un bel ragazzo che si chiama Jordan Rakey. Conosci Jordan Rakey? Sì, l'ho ascoltato e la prima associazione che ho fatto è stata appunto quella con Robert Glasper. E infatti Jordan Rakey si rifà musicalmente al movimento contemporaneo, quello a cavallo fra il jazz, il funk e l'R&B, utilizzando quelle ritmiche singhiozzanti tipiche di Jay Dilla, che adesso vanno per la maggiore fra i nuovi artefici del contemporary R&B. Dunque Jordan Rakey, che si è tolto anche lo sfizio quest'anno di calcare il palcoscenico dal vivo con Robert Glasper, ma anche con un veterano del New Soul come Roy Ayers, ha pubblicato già 2-3 album, alcuni EP, tutto via internet, con una particolarità. Sì, allora, il primo EP è, diciamo, a donazione, cioè puoi decidere tu il prezzo da dare a quell'EP. Ecco, siamo arrivati per la musica all'elemosina. Mentre il suo album, che è praticamente uscito adesso e si chiama Groove Course, costa 8 dollari australiani, $8 australiani, ed è l'unico modo per potersi procurare su supporto digitale, quindi in MP3, non credo neanche sia stato stampato, il CD Il talento e l'arte di questo ragazzo chiamato Jordan Rakey, che qui apprezziamo al soundcheck di Radio 24 per la prima volta con Add the Best Line. Jordan Rakey al soundcheck di Radio 24. Let it groove to the soul, blind up with specifics in the goal. Find out which the illest, who knows. Play the beat, skanking at the shows. Let the bassline fly, frequency and motion through the sky. Storms and melodies in the eye, havoc on the speakers all night. Sub rumble to the birds. Everybody's got the groove curse. Everybody's got the groove curse. Eh sì, da tenere d'occhio il talento di Jordan Rakey dall'Australia con Furore, oppure non so cosa, con i canguri. Sì, con i canguri. Con i canguri arriva Jordan Rakey dall'Australia con il suo sound contemporaneo e Jordan Rakey sta anche collaborando in giro per il mondo, perché naturalmente il talento giovane di questi personaggi non sfugge all'attenzione dei bravi disc jockey. Lo abbiamo detto nella prima parte del soundcheck di oggi, che dei bravi disc jockey sono presenti in Francia, esattamente a Parigi, e da Parigi arriva questo signore che si chiama French Kiwi Juice, ovvero FKJ, che incontra Jordan Rakey per dare vita a Learn to Fly. Jordan Rakey e French Kiwi Juice al soundcheck di Radio 24. Yo, I heard it cross the grapevine, sweet taste of my alibi, yeah. It's a dangerous scene with no one who heard it right. Any color cause it takes time, eclipse of this moonlight, yeah. Yo, as strange as it seems, with nothing but us tonight, yeah. Soundcheck, il suono della musica. And release. La bellissima Good Times, brano scritto da Frank McComb per il bassista Richard Bonnat e Frank McComb insieme qui al soundcheck di Radio 24 per introdurre una parte del nostro programma di musica dedicata alle sonorità africane. Sì, perché anche l'Africa sta andando molto forte musicalmente. Eh sì, la vena, diciamo, world etnico sta spingendo tantissimo. Sta funzionando, perché bisogna spingere sul ritmo. Tra l'altro facemmo anche uno studio alcuni mesi fa, mio caro Francesco Tromba, sui ritmi più importanti che arrivano dall'Africa, e sono esattamente 7, con dei nomi improbabili. Impronunciabili per noi, sicuramente ritmi che Richard Bonnat conosce benissimo, visto che è nato in Camerun, ma anche se poi ha girato tutto il mondo con il suo basso elettrico, bravissimo cantante, bravissimo compositore, chiamato, ha lavorato da tutti, è stato chiamato dai migliori. Oggi è residente a New York City e infatti proprio in una scorribanda americana ha incontrato Frank McComb, che ha prestato la sua voce in questo bellissimo brano intitolato Good Times. Quindi l'Africa sta spingendo musicalmente e il sound africano arriva anche a opera di una nuova band che si chiama Owini Sigoma Band, della quale sinceramente non so tantissimo. Tu hai delle informazioni di questi ragazzi? Sì, è una band che ha come base Londra e sono anche loro nel circuito di Giles Peterson. Ma ci sono arrivati adesso a Giles Peterson? Eh sì, da poco, diciamo. I fratelli Hackett, che uno è bassista e l'altro invece suona le tastiere, si sono appassionati di Africa in questo viaggio che hanno fatto verso Nairobi, e quindi lì hanno incontrato, diciamo, dei musicisti locali e sono stati rapiti, possiamo dire, dal groove africano. E quindi hanno messo sulla band chiamata, lo ripeto, Owini Sigoma Band. Sono tornati a Londra, hanno registrato, hanno fatto sentire questi demo a Giles Peterson, e Giles Peterson che ha fatto? Li ha scritturati e ha pubblicato subito l'album. Tra l'altro il brano che noi vi facciamo ascoltare, che è tratto dall'ultima pubblicazione intitolata, come si chiama l'album di Owini Sigoma Band? Power Punch, ok, tratto da Power Punch. Il brano si intitola Harpoon Land e questo brano è stato anche utilizzato per un videogioco, mi sembra, nella colonna sonora di un videogioco. Hai capito? Quindi stanno già alla grande questi ragazzi, perché dai videogiochi si incamerano tantissimi diritti d'autore. Però non si incasi, cioè solo una volta. Come solo una volta? Solo una volta, no? O no? Sbaglio. No, sempre. Quelli, più videogiochi vengono venduti e più diritti ricevi. Scherzi, il diritto d'autore funziona. Più della discografia, quello funzionerà sempre. Allora tocca scrivere musica, tocca scrivere musica. Owini Sigoma Band al soundcheck di Radio 24 con Harpoon Land. Talking broken memory, you stand. Si intitola Power Punch l'album degli Winnie Sigoma Band, band anglo-africana che ci propone Harpoon Land in questa parte del nostro soundcheck dedicata alle sonorità africane. E un'altra signorina inglese da Birmingham, della quale abbiamo parlato a lungo nella passata stagione, ovvero Laura Mvula, che sta ottenendo grandi consensi e da sempre vicina alle sonorità africane, che hanno regalato quindi al carattere musicale di questa ragazza un sound unico e particolare. E Laura Mvula, sorretta da una eccellente produzione discografica, oggi approda anche a un grandissimo organico, ovvero quella dell'orchestra sinfonica Metropole Orchestra, che si è riunita negli Abbey Road Studios, quelli dei Beatles, proprio per riproporre il repertorio di Laura Mvula in chiave orchestrale. Laura Mvula, album nuovissimo, dal quale ascoltiamo uno dei suoi cavalli di battaglia intitolato That's All Right. Soundcheck, il suono della musica. I still hang around. Delle composizioni più importanti del repertorio del pianista Joe Sample, la famosissima Street Life che Joe Sample realizzò per i suoi Jazz Crusaders intorno alla fine degli anni 70, chiamando in studio Randy Crawford. Invece questa era la versione più recente, anche se datata 1995, con un'altra voce importante, sicuramente la mia vocalist preferita in questo momento, ovvero la bravissima Lala Hathaway, figlia d'arte, figlia di Donny Hathaway. Abbiamo parlato e anche dedicato una puntata intera alla voce di Lala Hathaway. Secondo te qual è il segreto della vocalità di Lala Hathaway? Che è importante anche sulla bilancia, diciamo, oltre nella voce. Ah, tu dici questo, bella voce, una bella voce corrisponde anche a un bel fisico, quindi una voce importante ha un fisico importante. Sì. Penso di sì. È un po' nella tradizione della musica classica, no? La voce del grande tenore viene fuori da un grande corpo, come per esempio nel caso di Pavarotti, anche se poi non è una regola. Però per esempio nei cori gospel, quando vai nella chiesa battista o evangelica e vedi quel coro con quelle ciccione strepitose, da quei corpi vengono fuori delle voci angeliche. Sì, proprio celestiali direi. E allora dimmi una cosa, qual è per esempio una voce che appartiene a un bel fisico, perlomeno al tuo preferito? Ad esempio, secondo me Beyoncé è una giusta via di mezzo fra... Come una giusta via di mezzo? Quella è strepitosa come cantante e anche fisicamente non è male. Che via di mezzo? E chi frequenti tu allora per dire questo? No, nel senso che ha comunque delle caratteristiche da cicciona, possiamo dire. Da sorella, quindi tendenzialmente si allarga sui fianchi, sì. No? Beh, non è male, pensa a Jennifer Lopez. Appunto, è l'altro punto di vista. Sai dove aggrapparti, mio caro Francesco Tromba? Lasciamo perdere, andiamo a Lala Hathaway, che sta ottenendo consensi e successi in tutto il mondo. Ha vinto il Grammy Award quest'anno per la performance dal vivo fatta con gli Snarky Puppy. Ha vinto un Grammy Award partecipando anche a Black Radio 1, volume 1 di Robert Glasper Experiment, con il quale si incontra nuovamente in studio di registrazione più o meno un anno fa per realizzare questa versione di Jesus Children, brano scritto da Stevie Wonder ma nell'arrangiamento contemporaneo, come dicevamo, di Robert Glasper Experiment, qui con Lala Hathaway al soundcheck di Radio 24. No. Let's give our children love and gratitude. Fly high. Shine. Lala Hathaway, e da Lala Hathaway qui al soundcheck passiamo, visto che abbiamo ancora qualche minuto a disposizione prima della prossima pausa, a una voce nuova, voce che appartiene a Nia Andrews, e tornando al discorso di prima, anche questa ragazza ha un bellissimo aspetto. Eh sì, è slanciata, diciamo... quasi senza parole. Un suono a cavallo sempre fra il soul, il contemporary R&B e anche un pizzico di jazz per questa giovane artista che arriva da Los Angeles, Nia Andrews. Ascoltiamola subito con Notes on an History qui al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Ancora un po' di minuti a disposizione per il soundcheck di Radio 24, dove vorrei parlarvi di Malcolm John McRebenach, ovvero Dr. John. Abbiamo già parlato di Dr. John in questa puntata, presentandovi l'album di Al Jarreau dedicato a George Duke con la partecipazione di Dr. John, ma questo protagonista della scena musicale di New Orleans approda con una nuova pubblicazione. L'album è stato distribuito, messo in distribuzione non più di 3 settimane fa. Dr. John celebra la sua passione per Louis Armstrong con questo disco intitolato The Spirit of Satch. Tu sai qual era il nomignolo di Louis Armstrong? Satchmo. Satchmo, esatto. E Satchmo proprio per le grandissime labbra che aveva il signor Louis Armstrong. E il sottotitolo dell'album è Schedat de Dat, quindi un po' di sched, perché Louis Armstrong è stato discograficamente il primo artista a proporre lo sched, visto che in studio di registrazione gli cadde il testo di una canzone intitolata IBGB e quindi improvvisò la melodia proponendo dello sket. Dr. John celebra quindi Louis Armstrong. Perché mi guardi così? Che cosa mi devi chiedere? Ti volevo chiedere se sai perché Dr. John ha scelto come nome Dr. John. Beh, certamente perché è laureato in medicina, no? No. Non è pediatra Dr. John? No, no, è medico dell'anima, però. Medico dell'anima. Allora, perché Dr. John? Il suo nome deriva da un principe senegalese che era un medico dell'anima, oltre che un medico vero e proprio, che veniva da Haiti, arrivò a New Orleans ed iniziò appunto la sua attività come guaritore sia spirituale che fisico. E quindi che c'entra Dr. John? Lui ha scelto appunto il nome di Dr. John. L'ha scelto lui, che viene da quella. Quindi l'abbiamo detto prima, appassionato di esoterismo e quindi con le influenze del voodoo tipico di Haiti. Sì, esatto. Oh, bene, allora ci siamo. Ma torniamo alla musica di Dr. John, The Spirit of Satch, il brano che ho scelto per voi, ha la partecipazione del trombettista Terence Blanchard e di Mike Ladd, il brano un classico di tutti i tempi, intitolato Mac the Knife, ma se sentite che cosa ha combinato Dr. John in studio di registrazione. Una versione update di Mac the Knife per Dr. Jones con la partecipazione del trombettista Terence Blanchard a chiudere questo primo appuntamento della nuova stagione del Soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Noi però torniamo anche domani, perché ormai siamo approdati da un bel po' di mesi al weekend, quindi l'appuntamento è a domani. A che ora? Doppio appuntamento, Francesco Tromba? alle 15.30 e alle 19.15. 19.15, lo ricordo, è l'appuntamento dedicato alle sonorità più jazz, quindi da non perdere perché ci sono moltissime novità. E allora grazie a tutti, buona serata, buona musica da Gigi Telesforo, restate sempre in contatto con la vostra e con la nostra radio preferita. Qual è? Radio 24. Hai visto che lo sai, bravo. Talk about my problem. You're talking on my best romance. Just play confirmation. Strain a chaser at your best.